E questa è sempre Oxygen. Stiamo ascoltando alcuni estratti dal nuovo lavoro di Dave Wismans, aka 2562, ma anche conosciuto come A Made Up Sound, che ha realizzato questo lavoro con il nome di In Transit per la Felt Label, un'etichetta di Fergus Jones specializzata in dub minimalista. In Transit è il nome di questo lavoro, di cui ascoltiamo un altro breve estratto. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Quello che abbiamo appena ascoltato era In Transit per la Felt Label, ma andiamo avanti con un altro extended play, questa volta Nicky Nair con Foodman, che fanno uscire due tracce sotto il titolo di Nagoya. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Ricordo che state ascoltando Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda. Ricordo anche il nostro sito di riferimento www.radiosamarcanda.it e quello della nostra crew che si chiama musicamachina.com, sulla quale potete trovare podcast, playlist, video, recensioni, altro materiale che riguarda le nostre attività sonore. Ma andiamo avanti, quello che già stiamo ascoltando, abbiamo già ascoltato un primo estratto, è un progetto che seguiamo da tempo, Warrington Rancor Newtown Development Plan, un progetto inglese che continua a sfornare EP e album a tutto spiano. E quello che stiamo ascoltando è un lavoro che si chiama Public Works and Utilities. This is Oxygen. questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Stiamo ascoltando un paio di estratti. Il primo si chiama Danger, quello già sotto la mia voce è Calm Down, dal nuovo extended play di Lemon D che si chiama All Junglist. Questo era Lemon D, All Junglist, si chiama l'extended play, chiaramente orientato alla jungle. E torniamo a atmosfere diverse, questa volta ancora più scure di quelle che propone Lemon D, si chiama Batecno, e il lavoro con quattro brani si chiama Iceberg Dubs, pubblicato dalla Psy Records. Thank you. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. E vi ricordo che state ascoltando Oxygen, un'elettronica cupa, percussiva, sperimentale, quella di Batecno, ma andiamo avanti con un altro autore che abbiamo avuto occasione varie volte di ascoltare per le sue sonorità che richiamano una certa IDM anni 90 alla quale siamo fortemente legati. Ghostware, il titolo dell'Extended Play, e lui è Moi. You E vi ricordo, siete sempre all'ascolto di Oxygen in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato un estratto dal nuovo lavoro di Moi che si chiama Ghostware, che ci riporta come sonorità a certe movimenti di bassline acida che venivano spesso sfruttati da Square Pusher e da Aphex Twin negli anni 90. Ma andiamo avanti con un'altra novità: Planet Mu Records, l'etichetta di Mike Paradinas di Music. Abbiamo ascoltato prima un estratto dal suo nuovo lavoro, ma come vi dicevo è anche un grande produttore, è uno dei dischi migliori del 2025 e senza dubbio quello di Ship Scat, che è uscito da poche settimane, che si chiama Initiatrix. For your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. there is no blood, there is no blood, there is no blood. Questa è sempre Oxygen, dopo questa elettronica così spinta, sperimentale, spezzata, disarticolata e frantumata di Ship's Cat, pubblicazione della Planet Moon Records. Chiudiamo con un classicone in qualche modo per due artisti che non hanno bisogno di presentazioni, due DJ tra i più conosciuti nella scena techno, Chris Liebling e Speedy J, Collabs 3000, pubblicato da Nuova Mute come extended play, già sotto la mia voce la prima traccia. listen to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Oxygen. Turn up the volume. The volume.